24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'intesa raggiunta tra Francia e Germania sulla ricapitalizzazione delle banche e l'incremento del fondo salva stati. Sulla crisi del debito è intervenuto anche il segretario al tesoro americano Tim Geithner. Vi racconteremo gli ultimi sviluppi economici in Irlanda, Spagna e Portogallo e andremo a spulciare i risultati del rapporto europeo sulla competitività industriale. Infine la sicurezza stradale, l'Italia manca gli obiettivi europei. C'è intesa tra Francia e Germania sulla ricapitalizzazione delle banche e l'incremento del fondo salva stati. Nel corso dei prossimi due giorni continueremo le nostre discussioni, ma abbiamo già raggiunto degli accordi che sono molto importanti. Così il ministro dell'economia francese François Baroin, uscendo da un incontro con l'omologo tedesco Schäuble e il presidente Sarkozy. Francia e Germania lavorano in stretta collaborazione per trovare soluzioni durevoli alla crisi che minaccia l'eurozona e presenteranno le loro proposte nel vertice europeo del prossimo 23 ottobre. Così Schäuble. Il Fondo Monetario Internazionale a sostanziali risorse non impegnate che potrebbero essere usate per aiutare l'Europa a gestire la crisi del debito. Lo afferma il segretario al tesoro americano Tim Geithner. Gli Stati Uniti giocano un ruolo importante tramite il fondo, osserva Geithner. L'Europa sta prendendo decisioni difficili, osserva il responsabile del tesoro americano. Gli investitori concederanno prestiti se vedranno un'azione decisa. È necessario un chiaro impegno dei governi a fare tutto il possibile. E la Commissione Europea ha ribadito la necessità di ricapitalizzare le banche comunitarie dalla roadmap presentata dal presidente Barroso sulle azioni da seguire per ricapitalizzare gli istituti di credito. È chiaro che le difficoltà che stanno attraversando le banche sono strettamente legate a una mancanza di fiducia creata dalla crisi del debito. Seduta positiva intanto venerdì per le borse europee, le vendite al dettaglio americane, l'attesa per le indicazioni dal G20 e gli ottimi risultati di Google hanno creato un clima di ottimismo. Milano la migliore, complice il voto di fiducia al governo. Il FTSE MIB è salito del 2,49%. Sentiamo. Seduta positiva per le borse europee, le vendite al dettaglio americane e le attese per le indicazioni che emergeranno dal G20 e gli ottimi risultati di Google hanno creato un clima di ottimismo e hanno fatto dimenticare la scure di S&P sulla Spagna, nonché l'accelerazione dell'inflazione europea, pari al 3% lo scorso settembre. Milano è stata la migliore, complice il voto di fiducia al governo. Il FTSE MIB è salito del 2,49%. Sono state gettonate le banche che sul finale però hanno rallentato il passo, risentendo dello studio di Goldman Sachs che ha ipotizzato la necessità di una raffica di aumenti di capitale per i principali istituti europei fino a 298 miliardi di euro. UniCredit ha vantato un progresso del 2,3% dopo il colpo di oltre il 12% accusato la vigilia. Non si è arrestata la corsa di BPM in progresso di oltre il 6%, ancora elettrificata dalla speculazione che sale in vista dell'assemblea dei soci. Dallo scorso 21 settembre le azioni della Popolare hanno registrato ormai un progresso complessivo quasi pari al 50%. Hanno accelerato il passo anche le ST più 3,4%, beneficiando dell'andamento positivo di tutto il comparto tecnologico. Fiat ha messo a segno un rialzo del 5,4%, trascinando all'insù anche l'azienda di pneumatici Pirelli più 3,8%. Bene anche le Fiat Industrial. Sono invece andate male le Finmeccanica meno 1,39%, penalizzate dal giudizio negativo di HSBC. Eleonora Michele da Radio Corp per Radio 24 Il Sole 24 Ore. In Irlanda è in corso una modesta ripresa trainata da un miglioramento della competitività e dall'aumento delle esportazioni, ma accompagnata da significativi rischi di trend negativi associati ai timori dei mercati sulla stabilità finanziaria dell'eurozona, lo scrive l'Ocse. Intanto il governo spagnolo ha approvato per decreto la riforma dei meccanismi d'appoggio al settore bancario annunciata nei giorni scorsi per far sì che non siano più i contribuenti a dover pagare per la ristrutturazione delle banche. Intanto il Portogallo sta provando a reagire alla crisi. Portoghesi, buonasera. È secco nel saluto al pubblico televisivo il primo ministro di centrodestra Pedro Passos Coelho. E secche sono le misure che annuncia i connazionali dopo l'approvazione del bilancio 2012. Si lavorerà mezz'ora in più al giorno, il calendario delle feste sarà rivisto e comunque per chi guadagna più di 1000 euro al mese niente bonus se lavora nelle feste comandate. Basta quattordicesima, poche deduzioni fiscali. Misure che riguardano in gran parte i dipendenti pubblici, ma anche quelli del privato e i pensionati. E per tutti, l'IVA aumenterà dal 13 al 23%, eccetto che sugli alimentari. Non avremmo mai dovuto arrivare a tanto, ha detto il Premier, ma ormai superare l'emergenza nazionale dipende dall'impegno assoluto di tutti. Fare altrimenti del resto non si poteva. Per ricevere aiuto da FMI, BCE ed Europa, il Portogallo si era impegnato a varare questo piano di austerità, che però, secondo diversi economisti, salverà forse l'immediato, ma deprimerà ulteriormente l'economia del paese, con gravi effetti sulla disoccupazione, che è già al 12%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il potenziale di crescita dell'Italia è motivo di preoccupazione. La Commissione europea lo scrive in un'analisi della competitività industriale. Indica che le nostre imprese sono svantaggiate da un contesto piuttosto sfavorevole, riconosce sforzi significativi, ma parla di interventi scoordinati e frammentari. Secondo il rapporto, l'Italia è all'ultimo posto tra i 27 per il peso della burocrazia e della regolamentazione sulle imprese, ha un tasso di produttività del lavoro per persona occupata di poco inferiore alla media ed è sopra la media per quanto riguarda la percentuale di imprese innovative sul totale delle imprese. Proprio in Italia il governo del premier Silvio Berlusconi ha ottenuto una risicatissima fiducia in Parlamento. Venerdì, con soli 316 voti, resta a rischio la capacità di sopravvivenza a medio-lungo termine dell'esecutivo. Andiamo in Gran Bretagna. Il primo ministro David Cameron ha accettato le dimissioni del ministro della difesa Liam Fox, dicendosene rammaricato ma aggiungendo che ne capisce le ragioni. La lunga saga di Mr. Fox e Mr. Werety è finita nel peggiore dei modi. Il ministro della difesa britannico Liam Fox si è dimesso per i sospetti sui suoi rapporti con l'amico Adam Werety, suo testimone di nozze, che lo ha accompagnato in almeno 18 missioni ufficiali in giro per il mondo senza avere alcun titolo ufficiale per essere al fianco del ministro. Non solo, ha partecipato a meeting con politici ed esperti militari pur avendo interessi indefiniti ma legati al mondo della difesa. Dimissioni maturate sul filo di mille illazioni, non solo quelle sul possibile interesse d'affari che Werety avrebbe potuto avere, ma anche sulla teorica liaison fra i due amici. Un barrage di voci che il premier David Cameron ha cercato di contenere per almeno una settimana, facendo quadrato attorno al suo ministro, un uomo della primissima fila dell'esecutivo conservatore, ma nelle ultime ore ha dovuto cedere. Il premier ha detto di capire le motivazioni di Fox e ha accettato l'addio. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. È morta la professoressa di un liceo di Béziers nel sud della Francia, rimasta gravemente ustionata dopo essersi data fuoco cospargendosi di benzina nel cortile della scuola. Sentiamo. Ha annullato la lezione fissata per le 9 dicendo di non sentirsi bene. È andata in cortile e si è cosparsa lentamente di benzina, poi si è data fuoco. A soccorrerla gli altri insegnanti del liceo Jean Moulin de Béziers nel sud-ovest della Francia, mentre gli studenti tutt'attorno piangevano. Ricoverata d'urgenza, la donna, 44 anni, è morta ieri. Troppo gravi le ustioni riportate. L'anno scorso la prof aveva sofferto di un esaurimento nervoso ed era stata convocata a più riprese dalla direzione del liceo, 3.000 allievi e 280 insegnanti. Quest'anno le cose non andavano molto meglio. Mercoledì, una lite in classe con gli studenti che la giudicavano troppo severa. Durante l'ultima riunione di classe, lo scontro anche con i genitori. Il ministro dell'istruzione, Luc Chatel, ha espresso parole di profonda emozione davanti a questo gesto di disperazione. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere questa edizione parliamo di sicurezza stradale. La strada per la sicurezza stradale, si perdoni il gioco di parole, è ancora lunga, specialmente per quello che riguarda il nostro paese. Nonostante gli obiettivi fissati dall'Unione Europea di dimezzare il numero di vittime derivanti da incidenti stradali in tutti gli Stati membri nel decennio 2000-2010, l'Italia si ferma a un calo del 39%. Secondo gli ultimi dati ACI Istat disponibili, infatti, dal 2000 al 2009 i morti sulle strade sono passati da oltre 7.000 a 4.237. Bene, ma non abbastanza. Situazione leggermente migliore, ma comunque bocciatura, se si guardano i dati delle maggiori città italiane. A Milano l'indagine sull'incidentalità presentata oggi dall'Osservatorio Utenze Deboli rileva, dal 2000 al 2010, il 42% di vittime in meno. Male anche Roma, che detiene il record tra le capitali europee per incidenti letali che coinvolgono pedoni, 65 nell'ultimo anno. Unica nota positiva, l'Emilia-Romagna. Stando ai dati elaborati dal progetto Mister, nel 2010 ci sono stati 401 decessi contro gli 813 del 2001. Incoraggiante, ma c'è ancora molto da fare se si pensa che per il nuovo decennio l'Unione Europea ha fissato in un ulteriore 50% di riduzione il nuovo obiettivo. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa.